Adesso ci possiamo spostare al piano della congiuntura, cioè tornare alla grande depressione o grande recessione, come secondo me più opportunamente, per distinguerla da quella degli anni 30, andrebbe chiamata quella in cui siamo immersi. Allora, la domanda di partenza è come impatta, chi pagherà i costi generazione per generazione della crisi attuale? Dal punto di vista congiunturale, in molti si sono chiesti come riformularla questa domanda in un modo che va a essere un po' più preciso. Primo modo per riformulare la domanda delle conseguenze della crisi. Le recessioni lasciano conseguenze di lungo periodo sul benessere e sul successo finanziario? Riformuliamola. Se una recessione colpisce in fasi diverse della vita degli individui, ha effetti diversi? E se ha effetti diversi, quali effetti ha? Che cosa ci dicono in proposito le crisi degli ultimi 50 anni? Allora, per diverse ragioni, la crisi in cui siamo immersi noi non è così facilmente confrontabile con la crisi degli anni 30. Noi sappiamo che è egualmente potente per intensità, cioè perdita di produzione e occupazione, è egualmente potente per la sua persistenza, ma è difficile fare un confronto tra due mondi che sono istituzionalmente, che fanno capo, che fanno riferimento a quadri istituzionali così diversi come il mondo, diciamo, le due sponde dell'Atlantico tra il 29 e il 35-36 e il mondo globale tra 2007 e 2012. Quindi è più opportuno fare dei confronti dal punto di vista delle domande che ho provato a elencare fino adesso con le crisi, gli shock economici dell'ultimo, diciamo così, cinquantennio, ma in realtà forse dell'ultimo trentennio. Perché le crisi degli ultimi 30 anni ci possono dire qualche cosa appunto riguardo a come a chi sopporta la crisi gli effetti delle recessioni. Ultimo modo di riformulare la domanda iniziale. Quali sono le fasi del ciclo di vita, giovani, adulti, anziani, in cui uno shock economico negativo, cioè una crisi, può lasciare delle cicatrici permanenti? L'espressione che usano i demografi e gli economisti è quello di scarring effect. Scar, come sapete, è la cicatrice. Questi effetti cicatrice, chi li sopporta, quanto durano, come sono fatti? Allora, noi sappiamo che c'è una enorme letteratura che ci dice che è soprattutto la persistenza, più che non l'intensità transitoria, la persistenza degli effetti di uno shock economico che ne definisce la rilevanza. È per questo che noi diciamo che la crisi in cui siamo immersi è la crisi più potente che il mondo occidentale abbia conosciuto, che il mondo abbia conosciuto dagli anni 30. Ma ad analizzarle da vicino, quali sono concretamente le manifestazioni di questa persistenza? Allora, su questo c'è una letteratura sterminata. Se voi guardate il lavoro di Brugiadini Weber, che è citato nella mia bibliografia, è un rapporto di 300 pagine, ci trovate tutto quello che vi interessa in proposito. Porto la vostra attenzione su alcune acquisizioni della letteratura recente. Qualcuno si è preso la briga di fare una serie di regressioni econometriche su delle amplissime basi dati americane che riguardano l'economia americana nelle fluttuazioni cicliche tra il 79 e il 2011. E i risultati che ne sono usciti sono più o meno questi. Il primo, l'ho detto prima, il declino nel mercato del lavoro americano durante la grande recessione, quella in cui siamo dentro adesso, è il più profondo e il più persistente dalla depressione degli anni 80, stiamo facendo dei confronti vicini. Quindi lo shock economico più confrontabile, più vicino a quello che stiamo vivendo, è quello degli anni 80. Non ho bisogno di dirlo a Martino Iniziato, che ci ha fatto la tesi sopra, ma la crisi degli anni 79, primi anni 80, è quella che porta alla presidenza Reagan, la cui reazione è stata l'avvento della dei repubblicani per un lungo periodo di governo. In generale, questa nostra recessione 2007-2012 è la più profonda e persistente dagli anni 30. L'impatto di questa recessione non è uniforme tra i diversi gruppi generazionali. Sto parlando di Stati Uniti, che hanno un mercato del lavoro molto diverso da quello europeo, però sono interessanti quei risultati lì, perché ci dicono alcune cose che comunque lo rendono, come dire, su cui possiamo fare dei ragionamenti. L'impatto di questa recessione è sentito più drammaticamente dai lavoratori maschi rispetto alle donne. E questo è vero oggi come era vero nell'80. È sentito più fortemente dai lavoratori neri e ispanici rispetto ai lavoratori bianchi. E questo è vero oggi ed era vero nell'80. È sentito più fortemente dai giovani rispetto alla fascia degli adulti e dei lavoratori più anziani. È sentito più fortemente da chi ha bassi livelli di istruzione che non da chi ha livelli di educazione maggiori. Non credo di dire niente di sorprendente. Quello che ci dovrebbe sorprendere è che, a fronte di un impatto, allora, le due crisi sono profondamente diverse per durata e per potenza, però producono impatti, diciamo, fetta di popolazione per fetta di popolazione, che sono sostanzialmente simili. Quello che ci dovrebbe sorprendere è che ci sono delle dinamiche che invece sono cambiate profondamente. Ci sono molte più donne che partecipano al mercato del lavoro oggi, e l'immigrazione ispanica è stata enorme in questi 30 anni. Ciò nonostante, l'impatto sui gruppi generazionali rimane sostanzialmente simile. Che cos'è che lo spiega? Che spiega questa persistenza nella similitudine? Il fatto che la grande recessione, la recessione attuale sull'economia americana, si è scaricata soprattutto nell'industria manifatturiera e soprattutto nell'industria manifatturiera più labor intensive, oltre che nel settore delle costruzioni. Per cui anche nel 2012, quando che è stato poi il grande tema della campagna elettorale americana, l'economia americana ha ripreso, se andiamo a guardare l'andamento del PIL, ma non ha ripreso l'occupazione americana. Quindi quello che noi sappiamo è che quei lavoratori più colpiti dalla crisi, neri, giovani, poco istruiti, ispanici, eccetera, eccetera, sono i primi a perdere il lavoro, più probabilmente anche i primi a ritrovarlo, però, perché in realtà non si possono permettere di rimanere attivi, non possono permettersi di scoraggiarsi. Anche in Italia vale questo: i più colpiti sono i lavoratori stranieri, ma non troviamo lavoratori stranieri nelle statistiche dei cosiddetti inattivi. Allora, guardiamo questo grafico qua, è il grafico che in qualche modo vi ho raccontato con le parole che ho appena finito di dirvi. Cosa ci leggete? Non è semplicissimo da leggere, apparentemente non è semplicissimo da leggere. Le varie curve tratteggiate vi raccontano l'andamento delle diverse recessioni tra l'80 e oggi. In basso, scusate, qui c'è la crisi degli anni 90, la crisi dot-com, quella del 2001. Lo vedete da voi che quelle due più confrontabili sono la crisi attuale, crisi 2007, diciamola così, e la crisi degli anni 80. Confrontabile che cosa significa? Cioè, sono confrontabili tutte, quelle che sono più simili sono queste due, sono simili nella misura in cui sono simili l'impennata iniziale, una cosa che non vi ho detto. Sull'asse orizzontale vedete il tempo, cioè i mesi dall'inizio della recessione. Sull'asse verticale vedete la percentuale di cambiamento la percentuale di crescita della disoccupazione. Quindi, sia per la crisi degli anni 80 che per la crisi attuale, voi vedete che la disoccupazione si impenna rapidamente, molto più rapidamente tra il 2006, nel 2007 che nel 1980. Nel 1980 avevate questa roba qua, no? Si è cresciuta, ma prima si è un po' attardata, mettiamola in questo modo, intorno all'1% di peggioramento. E poi dopo qualcosa come 10-18 mesi c'è stata un'ulteriore impennata fino al 5% di perdita ulteriore di posti di lavoro. La crisi del 2007 è stata molto più impietosa. Dopo, praticamente istantaneamente dallo scoppio della crisi, si è impennata, quindi ecco la gravità della crisi, 5 punti istantanei di perdita ulteriore di posti di lavoro. E poi, cosa ancora più importante, in realtà questi livelli molto alti di disoccupazione sono perdurati. L'economia americana registra un lieve miglioramento, ma i livelli di disoccupazione rimangono altissimi. Nella crisi degli anni Ottanta la rapidità della crescita c'è stata, ma c'è stato anche un picco e poi un riassorbimento molto più veloce. Nel caso della... Se voi lo calcolate sull'asse orizzontale, ci sono 50 mesi tra lo scoppio della crisi, tra qui e qui, ci sono circa 50 mesi, che fa qualcosa come 4 anni, appunto. 4-5 anni. Torniamo a quegli scarring effects di cui parlavamo prima, quelle cicatrici permanenti che si scaricano su alcune generazioni, su alcuni gruppi demografici e non su altri. Allora, la debolezza dei giovani nelle fasi di crisi è un fatto abbastanza noto. Se lo volete vedere a colpo d'occhio, lo vedete in questo grafico redatto da Guglielmo Weber. Guglielmo Weber ha parlato di questi temi al Festival dell'Economia di quest'anno a Trento, che si è tenuto per l'appunto sulle generazioni. A me ha colpito questo concentrarsi dell'interesse sulle generazioni e sulle diseguaglianze intergenerazionali. Non so se ve lo ricordate, ma quest'anno hanno dato un tema sulle generazioni anche alla maturità. È interessante perché siamo di fronte... Problemi generazionali ci sono sempre stati, non è che siano una novità, non è che li scopriamo adesso, no? I problemi di dialogo intergenerazionale. Però noi siamo in mezzo a dei cambiamenti strutturali che li rendono più acuti e dobbiamo capire se li rendono sanabili o insanabili, se ci sarà davvero quel clash generazionale, ripeto, fiscale e politico, che qualche apocalittico ci dice essere di fronte a noi. Che cos'è che ci racconta Weber con questo grafico? Sull'asse orizzontale trovate l'età, sull'asse verticale la probabilità di entrare in un periodo di difficoltà finanziaria. Vabbè, lo vedete da voi, il picco della probabilità di entrare in un periodo di difficoltà finanziaria sta tra i 20 e i 30 anni. Perché? Per una cosa abbastanza ovvia a pensarci, no? Quando le imprese vanno in crisi, i datori di lavoro tendono ad applicare nelle decisioni di licenziamento il principio noto alla vecchia ragioneria del last in, first out. Chi è arrivato per ultimo esce per primo e chi arriva per ultimo di solito è più giovane. Viene lasciato per primo chi è entrato per ultimo, no? I giovani. Questa è una cosa su cui torno dopo, ma mi pare che valga la pena commentarlo adesso. Questo principio qui sembrerebbe contemporaneamente equo ed efficiente. Equo perché in fondo i giovani non è che tengono famiglia, possono trovare lavoro più facilmente. Efficiente perché i più anziani hanno più esperienza, quindi plausibilmente sono più produttivi. È vero? Mica tanto. E soprattutto è neutrale che questo principio di licenziamento selettivo, cioè quello che ci stiamo chiedendo, non ci sono degli effetti, degli scarring effect, degli effetti di lungo periodo dall'essere licenziati da giovani? La risposta è che sì, che ci sono. Proviamo a vedere come, però prima una parentesi, come si sono comportate le imprese italiane nella crisi. In questo grafico qua voi avete il tempo sull'asse orizzontale calcolato dal 93 al 2011, la curva più bassa, questa qui blu, vi racconta l'andamento del PIL, lo vedete, crolla giù, proprio dal 2007, il picco della crisi è 2000, nella caduta del PIL, ma soprattutto in Italia la caduta dell'occupazione è del 2009. Le righe colorate sopra vi raccontano cose differenti, cioè l'evoluzione recente di quello che viene chiamato tasso di disoccupazione giovanile, Young Unemployment Rate, calcolata tra i 15 e i 24 anni. Questo è un intervallo di tempo che, come dire, in qualche modo imposto dalle statistiche europee per rendere confrontabili a livello europeo i dati sulla disoccupazione. Si usa questo range, questo intervallo di età, anche se forse sarebbe più interessante usare quello 15-29, però l'Eurostat usa questo e quindi è opportuno attenersi a questo. Questo grafico vi confronta come è andata evolvendosi la disoccupazione giovanile, quindi 15-24, rispetto alla disoccupazione della popolazione adulta, che ricomprende i giovani e quindi che copre l'intervallo 15-64 anni. Che cos'è che vi racconta? Allora, qui vedete che la linea rossa descrive esattamente la disoccupazione giovanile. La linea rossa è quella lì. Ora, dall'andamento di questa curva, voi non vedete soltanto che la disoccupazione giovanile è più alta di quella degli adulti, ma soprattutto vedete che è aumentata molto di più della disoccupazione degli adulti. In particolare in Italia è passata dal 24% nel 2007 al 32% nel 2011, però noi sappiamo che nel primo trimestre del 2012 è già passata al 39,3%. Cosa ancora più importante, questo livello di disoccupazione 39,3 è più alto oggi che nel 1995. 1995 voleva dire il picco di minima dopo lo shock economico del 92, quello in cui la lira è stata svalutata del 30% da un giorno all'altro. Quindi il confronto è drammatico. E il confronto è ancora più drammatico se pensiamo che a metà degli anni 90 l'Italia ha iniziato la sua discontinuità nelle politiche del lavoro. Il pacchetto Treu è del 1997. La legge Treu è quella che inizia a liberalizzare i contratti di lavoro temporanei. Cioè i contratti di lavoro temporanei appaiono, diciamo così, con la legge Treu. La liberalizzazione del mercato del lavoro, come sapete, è stata ulteriormente accentuata dalla legge Biagi nel 2004, che fa accedere al mercato del lavoro le agenzie di lavoro interinale. La curva della disoccupazione giovanile, che era relativamente stazionaria, relativamente tranquilla fino alla metà degli anni 90, poi incomincia a entrare in una qualche fibrillazione. Questo ci dice che quel principio a cui facevo riferimento prima, la Steam First Out, è vero anche in Italia. C'è un criterio selettivo di licenziamento che va a danno dei giovani, tanto che la disoccupazione degli adulti nello stesso arco di tempo è molto più stabile. Ogni volta che quelle curve vanno in su vuol dire che la disoccupazione peggiora e tutte le curve della disoccupazione giovanile vanno all'insù. Questo anche perché, è un tema molto caldo, le riforme del lavoro in Italia sono state fatte, si dice così, sono state fatte a margine, cioè hanno aumentato la flessibilità, ma l'hanno aumentata solo per i nuovi entrati nel mercato del lavoro, quindi l'hanno aumentata per i giovani, ma non per i lavoratori anziani. Questa flessibilità, che sta solo sul lato del mercato del lavoro, significa che quello è il lato del mercato del lavoro su cui si scaricano tutti gli effetti di ciclo economico. E proprio perché i contratti di lavoro temporanei sono i primi ad essere sciolti. Con questo io non vi sto dicendo che non vorrei personalmente i contratti di lavoro temporanei, e forse non me lo direste nemmeno voi, forse voi vi limitereste a dire: noi vorremmo un lavoro. Però è da qui che lo vedete, che non c'è soltanto un clash generazionale, ma come va dicendo da tempo qualcuno, più o meno ascoltato, ci sono due mercati del lavoro fortemente segmentati in Italia. Se volete un altro colpo d'occhio piuttosto forte sullo svantaggio relativo dei giovani sugli adulti, guardate quest'altro grafico qua, questo è stato redatto invece da Tito Boeri. Io faccio riferimento a un convegno della Fondazione Rodolfo De Benedetti. Se andate sul sito della Fondazione trovate un mare di roba, cioè quella ricerca empirica a cui facevo riferimento sostanzialmente ha molto a che fare con i risultati che sono prodotti là. Boeri qua vi dice, allora vi sul lato sull'asse orizzontale vi elenca tutta una serie di paesi europei, 27 paesi europei, e sul lato verticale dice quali sono stati gli incrementi di disoccupazione. Avete una colonnina blu che ve la racconta per la disoccupazione di chi ha più di 25 anni e una colonnina rossa che ve la racconta per chi ha meno di 25 anni. Guardate e fatevi un'idea da soli. L'Italia, l'avete vista qua, guardate la differenza. Un modo ulteriormente interessante per valutare l'impatto della crisi sui giovani non è solo di guardarla per età, ma anche per livelli di istruzione. Allora, in linea teorica, andiamo a quest'altra slide. In linea teorica l'istruzione è additata generalmente come diciamo lo strumento più efficace per combattere il rischio di disoccupazione. Vediamo se è vero. Questa figura che vediamo qua ci dice che l'andamento della disoccupazione giovanile ce la raccontano per livelli di istruzione tra il 2004 e 2011. In rosso là in cima avete la linea dei giovani con istruzione primaria, cioè elementare, in verde quella dei giovani che hanno livelli di istruzione dell'obbligo, in viola scuola superiore, in verde azzurro è quella che ci interessa di più, è questa qua, è quella dei laureati. Al solito, no? Quando queste curve salgono la disoccupazione peggiora, quando scendono la disoccupazione migliora. Questa figura ci racconta che la crisi non solo non è neutrale per gruppi anagrafici, ma non è neutrale nemmeno per livello di istruzione. Cioè il livello di istruzione conta. Vediamo come. Il gruppo più colpito è quello che ha livelli di istruzione della scuola dell'obbligo. Quello verde, infatti lo vedete che questa curva cresce sempre. Il gruppo che ha sperimentato il miglioramento relativo è proprio quello dei laureati. Qui lo vediamo flettersi leggermente. Naturalmente qui non è che disaggreghiamo in che cosa sono laureati questi signori che vedono flettere. Detto fra noi, dubito che siano laureati in storia, però diciamo che i laureati si difendono meglio. Un buon argomento per studiare e per difendere il diritto allo studio. Questa slide è interessante, però non ci racconta di un altro lato della popolazione giovanile italiana, quello che va sotto l'acronimo, lo avrete letto da qualche parte, NEET, che è un acronimo di origine anglosassone, che vuol dire Nor in Employment, Education or Training, cioè chi non è né in un percorso scolastico né in un percorso di un qualsiasi apprendistato lavorativo. Questa dei NEET è la fascia dei giovani il cui stato dovrebbe preoccuparci di più. Un dato molto preoccupante dell'economia italiana precedente la crisi è che, cioè prima del 2007, i livelli di disoccupazione giovanile si stavano riducendo, anche abbastanza sensibilmente, ma non aumentavano i livelli dell'occupazione. È un paradosso, no? Ma che cos'è che c'era nel mezzo? Questi giovani qua, i giovani NEET. È decisamente la fascia più fragile della popolazione giovanile in qualsiasi paese, diciamo così, occidentale, certamente in Italia, e in Italia più che negli altri paesi europei, perché nel 2010 si contava in Italia sulla popolazione 15-24 anni che la fascia di questi NEET fosse di circa il 19%. Per capirci, la media europea è del 12,8%, la Germania ha un 8% di NEET, la Spagna ha il 18% dei NEET, quindi noi facciamo peggio anche della Spagna. È decisamente la frangia più fragile, non solo perché non lavora, ma perché sta dissipando anche il capitale umano che ha alle spalle, perché questo capitale umano col passare del tempo ovviamente si disperde, e disperdendosi a questa porzione che è del 19% sulla popolazione giovanile 15-24 renderà più difficile a questo 19% rientrare nel mercato del lavoro anche una volta che la crisi economica dovesse riassorbirsi. L'aspetto speculare dell'esistenza di questo 19% di NEET sulla popolazione giovanile è un altro, e non è bello neanche questo. In Italia, i dati personali non ce li ho, però l'Italia rispetto ad altri paesi europei è anche il paese che ha la percentuale minore di giovani che sono contemporaneamente in un percorso di istruzione e nel mondo del lavoro, cioè chi studia e lavora. E se andiamo a guardare le caratteristiche, la facilità a trovare lavoro in paesi, diciamo, con economie più robuste di quella italiana, noi vediamo che questa esatta caratteristica, studiare e lavorare, e non come è in Italia, prima studiare e poi lavorare, per esempio la pratica di prendere un sabbatico tra la fine della scuola superiore e l'inizio dell'università, o di accompagnare i due percorsi, è una pratica che rende molto più facile la transizione scuola e lavoro nelle economie europee più avanzate. In Italia no, abbiamo proprio due percorsi nettamente separati. Quindi, se avete un'occasione di trovare un lavoro, acchiappatelo. Non importa che lavoro sia, e questo è il punto, non importa che lavoro sia. Vorrei tornare su quegli effetti cicatrice, non ho molto tempo ma ancora un po' di cose da dire, sugli effetti di lungo periodo della disoccupazione giovanile. Cioè, ho detto prima, quel principio che sembrerebbe così, no? Un po' paternalisticamente neutrale, che in fondo, vabbè, che c'è di male a licenziare per primi i giovani, non mantengono una famiglia, trovano lavoro più facilmente, anche più efficiente perché gli anziani hanno maggiore produttività. Ecco, questo principio in realtà sfidato dall'acquisizione di due percorsi piuttosto robusti di ricerca recente. Il primo sono due ricercatori italiani, Giuliano e Spilimbergo, lavorano per il Fondo Monetario Internazionale, si sono chiesti se le generazioni che crescono durante un'esperienza collettiva di recessione abbiano delle aspettative e quindi degli atteggiamenti socio-economici diversi da chi invece cresce in una fase espansiva dell'economia. Hanno lavorato su basi dati gigantesche, hanno sostanzialmente fatto una ricerca, anche questa riguarda soltanto gli Stati Uniti, no? Hanno fatto diversi campionamenti su giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, andando a raccoglierne con fonti differenti le storie di vita, mettiamole in questo modo, su coorti generazionali differenti tra uno shock economico e l'altro, si sono avvalsi della letteratura che riguarda il come si formano le credenze sociali, si sono appoggiati a due ipotesi relativamente intuitive, la prima è che sono anche abbastanza simili fra di loro, la prima è che convincimenti, valori e visioni del mondo si radicano in noi negli anni di maggiore plasticità della nostra testa e poi rimangono sostanzialmente inalterati nell'età pienamente adulta. Ipotesi simile, gli individui sono relativamente flessibili rispetto alle circostanze quando sono giovani, questa flessibilità, diciamo così, si irrigidisce col passare del tempo. La conclusione di questo sentiero di indagine è che individui cresciuti in un clima di recessione tendono a credere che il successo nella vita dipenda assai più dalla fortuna che dal proprio sforzo, più facilmente supportano politiche di tipo redistributivo e, cosa interessante soprattutto per il caso italiano oggi, ripongono una fiducia nettamente minore nelle istituzioni pubbliche. La nostra ondata di antipolitica fotografa tra l'altro qualche cosa del genere. Un'altra pista di ricerca, questa è stata svolta da una serie di ricercatrici, ci dice che perdere il lavoro da giovani lascia inequivocabilmente delle cicatrici non solo permanenti ma anche piuttosto oggettivamente misurabili. Anche in questo caso sono andati a fotografare gli shock economici dell'economia americana dagli anni 70 in avanti e hanno scoperto che chi conosce episodi di disoccupazione all'inizio della carriera, all'inizio del ciclo di vita lavorativa, generalmente ha e continua ad avere compensi più bassi, una minore crescita salariale e una probabilità più alta di sperimentare ulteriori periodi di disoccupazione in età adulta. Ci sarebbe cioè una dipendenza dal sentiero se la propria vita lavorativa è iniziata in una recessione e in questa recessione si è sperimentato o un tardivo ingresso nel mercato del lavoro o un licenziamento. Allora, le quantificazioni, non so quanto affidabili, ma sono state fatte. Per gli Stati Uniti si è calcolato che il costo della perdita del posto di lavoro in termini di salari e stipendi futuri può arrivare fino all'8-10%, per il Regno Unito questa stessa penalità è stata calcolata nel 6%. Altri studi si sono preoccupati di calcolare quanto dura l'isteresi, cioè la permanenza di queste penalità, e hanno indicato un periodo tra gli 8 e i 10 anni. Questa cosa che vi ho appena detto, scusate, ce la riproduce qua di nuovo Guglielmo Weber. Questo è quello che, se volete vedere il suo rapporto di 300 pagine, lo trovate sul sito della Fondazione Rodolfo De Benedetti, ma Weber lo ha sintetizzato in 20 minuti a Trento nel giugno scorso. Ed è quello che vedete qua, no? Avete sull'asse verticale l'effetto delle difficoltà finanziarie misurata, cioè diciamo, la misura della penalità sui redditi futuri, la distanza in anni sull'asse orizzontale della fine del periodo di difficoltà finanziaria, e quello che vedete è che a riassorbirsi la difficoltà finanziaria ci mette qualcosa come 8-10 anni. Com'è che si spiega tutto questo? Se la perdita del posto di lavoro avviene in un periodo di crisi, è più probabile che siano in azione congiunta diversi fattori. Le recessioni amplificano le frizioni sul mercato del lavoro, in Italia questo è ancora più vero, i periodi di disoccupazione si allungano e, cosa ancora più grave, la perdita di capitale umano. E con capitale umano, ripeto, non intendiamo soltanto il bagaglio di conoscenza iniziale, quello con cui noi usciamo dalla scuola, ma anche e soprattutto l'apprendimento on the job, l'apprendimento sul lavoro che viene a mancare. Ecco, tutto questo spinge ad accettare facilmente lavori meno qualificati e ad avvitamenti verso redditi più bassi. A questi elementi economici ovviamente si aggiungono anche quelli non economici, anche ai fattori non economici si è cercato di dare una stima quantitativa, stima quantitativa degli effetti delle recessioni, anzi della perdita di lavoro, della dilazione nell'entrare nel mercato del lavoro, gli effetti sulla salute e sul benessere degli individui. E si è anche cercato di ragionare sul ruolo delle istituzioni, le assicurazioni pubbliche e private, le reti amicali e le reti familiari. Sintesi la più estrema: gli scarring effects colpiscono di più i giovani e colpiscono in particolare i lavoratori marginali. Un caso estremo, questo è un altro grafico di Tito Boeri. Che cos'è che avete qua? È un grafico che vi racconta chi fa più fatica a, in un periodo di crisi, a pagarsi un pasto completo. Quindi, se parliamo di marginalità, questa è fotografata bene qui. Allora, avete delle colonnine blu che descrivono questo rischio di trovarsi in questa situazione nel 2007 e le colonnine rosse che vi raccontano il rischio di trovarsi in questa situazione nel 2009. Allora, non guardiamo tutte le colonnine, basta che ne guardiamo una sola. Dov'è che è aumentato di più il rischio? Per la fascia 15-25. Il rischio è stato più o meno lo stesso per la bassa educazione, era tanto quanto prima il rischio che conoscete, i pensionati lo hanno addirittura ridotto, è abbastanza ininfluente il luogo dove si nasce, o perlomeno la questione nord-sud, diciamo, in Italia, e per il lavoro temporaneo e per i disoccupati. Dove aumenta è per i giovani. A proposito di lavoratori marginali, ovviamente non possiamo non fare riferimento ai lavoratori stranieri, alla forza lavoro straniera. La crisi economica ha avuto un impatto molto forte sulle migrazioni internazionali in generale, sui flussi di entrata e di uscita da diversi paesi, sul livello delle rimesse che i cittadini che lavorano in un paese diverso rimandano a casa e sulla situazione occupazionale degli stranieri in generale. Tenete presente che quando per l'Italia parliamo di lavoratori stranieri spesso sommiamo due categorie, cioè i lavoratori stranieri in Italia sono spesso anche lavoratori giovani, anzi quello che ci dicono le statistiche è che nella generazione 15-29 anni di oggi un quinto, cioè il 20%, è straniera o è figlia di stranieri. Allora, una crisi che impatta sui giovani e impatta sugli stranieri e impatta sempre più fortemente su delle grosse fette di popolazione italiana. Gli stranieri ovviamente hanno un triplo svantaggio rispetto agli italiani: uno svantaggio di istruzione, uno svantaggio di reddito e uno svantaggio di formazione. La forza lavoro straniera è quasi per definizione una di quelle più sensibili al ciclo economico. C'è una cosa interessante che vale per l'Italia: i dati disponibili ci dicono che la popolazione straniera residente ha continuato a crescere anche negli anni di crisi, no? Dal 2007 in avanti l'immigrazione in Italia ha continuato a crescere. Nel 2011 si registravano 4.600.000 stranieri residenti, c'è stato un incremento, diciamo in rallentamento, ma comunque di 328.000 unità rispetto all'anno precedente. La cosa interessante è che la presenza straniera in Italia è aumentata maggiormente nelle forze di lavoro che non nella popolazione totale. Gli stranieri lavoratori erano quasi 2 milioni nel 2008, 1.9, e 2.4 milioni nel 2010. Nel 2010 arrivano a rappresentare il 9% delle forze di lavoro complessive, cioè il 9% degli occupati nel 2010 sono stranieri. Ma a questo 9% di occupati stranieri corrisponde il 13% di disoccupati stranieri. Cioè la crisi colpisce molto di più i giovani degli adulti, molto di più gli stranieri di quelli italiani. Colpisce meno le lavoratrici straniere per quello che abbiamo detto prima a proposito del mercato del lavoro americano. Tendenzialmente le lavoratrici straniere si occupano, trovano occupazione in settori meno sensibili al ciclo, cioè l'assistenza alla casa alla persona. Nel biennio 2008-2010 il tasso di disoccupazione degli stranieri è cresciuto del 73% contro il 30% degli italiani. Stiamo parlando di crescita e non di livelli assoluti, di crescita da un anno per l'altro. Gli stranieri mostrano una minor capacità di mantenere il lavoro, ma anche una maggior probabilità di trovarne uno se disoccupati, per la ragione che abbiamo detto prima: non possono permettersi di restare inattivi. o come direbbe la ministra Fornero, non faranno gli schizzinosi. Sono le 6, io avrei qualcosa di ulteriore da dirvi sugli over 50, mi starebbe anche a cuore visto che ce li ho pure io, over 50 anni, e anche per non discriminare nessuna fascia d'età, però so che avete anche delle altre cose da fare. Posso? Spero di fare in fretta. Non ci sono più grafici, vi dico qualcosa e soprattutto vi do un riferimento che secondo me è interessante. Ripeto, nel mondo del lavoro è evidente che non ci sono solo i giovani, anzi i giovani sono anche un po' pochini. C'è una ricerca che io trovo importante e che diventerà sempre più importante, che è stata mandata avanti da, diciamo così, l'Università di Venezia con un finanziamento europeo, ma è un'indagine che viene svolta a livello europeo. Si chiama, l'acronimo è SHARE, Survey on Health, Aging, Retirement in Europe. Ricordatevi quello che ho detto prima, in Italia la porzione degli anziani, cioè gli over 50 su il totale della popolazione è la più alta di qualsiasi altro continente del mondo, quindi è una ricerca, come dire, benvenuta, perché ci va a raccontare un sacco di cose importanti. Questa ricerca viene realizzata longitudinalmente, cioè a intervalli di tempo sugli stessi panel data, dal 2004 fino a quasi a oggi. In realtà la terza rilevazione è del 2008-2009, quindi prende in pieno la crisi finanziaria. Allora, questa indagine, se voi googolate survey, share, trovate un bel po' di cose, e se andate a guardare il paper di Brugiavini Weber a cui facevo riferimento prima, che trovate in bibliografia, ci trovate gran parte dei loro risultati, ci dice una serie di cose interessanti. Io vi riassumo quelli che ho messo a fuoco io. La qualità della vita e dell'istruzione durante l'infanzia e l'adolescenza, le abilità scolastiche che manifestiamo durante l'infanzia e l'adolescenza sono negativamente correlate alla possibilità di entrare in periodi di difficoltà finanziaria in età adulta e positivamente correlate al suo contrario, cioè se andavate bene a scuola è più probabile che andiate bene anche per quanto al vostro salario stipendio, è il modo più brutale che ho di mettervi giù le cose. Una cosa molto più interessante che ha detto Weber, io a scuola andavo benino, questa cosa mi ha ringalluzzito molto, c'è una correlazione negativa tra risultati scolastici nell'infanzia e nell'adolescenza e l'incidenza delle malattie cognitive di tipo degenerativo. Una correlazione non è, è una correlazione, non, di per sé non contiene una spiegazione, però è una correlazione che hanno trovato. Le generazioni più recenti, lo abbiamo capito da soli, hanno una probabilità più alta di sperimentare difficoltà finanziarie, cioè shock individuali, rispetto alle generazioni precedenti, e questo si collega a tutta la prima parte sulla questione demografico-strutturale che abbiamo visto. Salari e stipendi attuali per chi sta ancora lavorando, oppure ultimo salario stipendio per chi è andato in pensione, non sono correlati solo al genere, ma anche all'essere entrati nel mercato del lavoro per la prima volta durante un periodo di recessione o durante un periodo di alta inflazione. Per l'Italia l'alta inflazione si intende sopra il 20%, l'Italia ha toccato questo livello esattamente nel 1980. Se siete entrati nel mercato del lavoro durante un periodo di recessione o un periodo di alta inflazione, i vostri redditi saranno inferiori di chi è entrato nel mercato del lavoro in un periodo espansivo. L'altra cosa che ci dicono è che salari e stipendi nel lungo periodo sono diversi per uomini e per donne. Le donne in particolare a fine carriera hanno salari e stipendi peggiore se hanno iniziato a lavorare durante una recessione. Cioè, non solo, anche gli uomini hanno stipendi peggiori se hanno iniziato a lavorare durante una recessione, ma le donne ce li hanno peggiori ancora. L'effetto negativo dell'essere entrati in difficoltà finanziaria, di essere entrati nel mercato del lavoro in un periodo di difficoltà, di recessione, è molto forte. La penalità richiede almeno 8 anni per essere riassorbita sul piano del reddito. Questi effetti sembrano essere più forti nei paesi del Mediterraneo rispetto che ai paesi del nord Europa. Qui c'è l'azione dei diversi meccanismi istituzionali di welfare sociale, evidentemente. C'è poi tutto un altro aspetto che non riguarda soltanto le questioni economiche, ma gli impatti sulla salute, che io trovo ugualmente interessanti. Entrare nel mercato del lavoro in un momento di recessione o di alta inflazione si riverbera sullo stato di salute e si riverbera, questo riverbero lo si legge sia raccogliendo dichiarazioni di tipo soggettivo che documentazioni di tipo oggettivo, cioè diciamo documentate da, che so, documentazione medica o periodi di ospedalizzazione, eccetera, eccetera. La cosa interessante è questa, è che per quanto, diciamo, il riverbero di tipo oggettivo è inferiore al riverbero di tipo soggettivo, cioè soggettivamente le persone ritengono di essere state più colpite soggettivamente nella loro salute di quanto la documentazione oggettiva non vada a documentare. Però se l'effetto sullo stato di salute soggettivo, cioè quello più alto, ha una persistenza calcolata in 10-15 anni, gli effetti di tipo oggettivo di fatto restano permanenti, cioè non sono più riassorbiti. Mi rendo conto che non è un modo particolarmente speranzoso per salutarvi, però io vi saluto qua e buonasera.